Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambolino, una nuova poesia del poeta Nico Menchin, dal titolo Mentre una foglia cade. Mentre una foglia cade, piegata dal vento, s'affievolisce un respiro, non udito nel buio, imprevedibile trema la terra come un brizzarro destriero che, in un violento contrarsi di muscoli e nervi, di dosso scrollarsi voglia il cavaliere arrogante. Mentre una foglia cade, un pargolo inerme con un vagito, la vita nel suo mistero saluta. Una fede si spezza come corda ormai logora, ma un'altra risorge come fenice immortale dalle ceneri d'un uomo. Mentre una foglia cade, libera nel vento un timido rivo dalla roccia zampilla e un nudo sorriso la notte rischiara.